Ok, allora, questo qua è l'indirizzo per andare a scaricare la lezione della settimana scorsa, che avrei dovuto nominare 2011-12-02 e in realtà ho messo 04 perché l'ho fatto poi 2 giorni dopo. Ad ogni modo, la lezione di questa settimana sarà 12-09. Sì, c'era il link corretto. Va bene. Allora, la scorsa settimana, fatemi un po' un revival di quello che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato con le query, perfetto. Con le query semplici. Abbiamo fatto Abbiamo l'esportazione. fatto l'esportazione da Access in In Excel. Excel, benissimo. Poi le query Le semplici. query semplici, benissimo. Allora, grazie Vanni. Giusto per ripetere velocemente le ultime cose che abbiamo fatto la lezione scorsa. La lezione scorsa siamo andati a vedere la creazione di una query semplice. Una query semplice sostanzialmente mi permette di andare a visualizzare le tabelle sulle quali fare l'interrogazione, di trasportare i campi nella parte sottostante e in automatico il programma va a riempire la riga campo, la riga tabella e la riga mostra. Ok? Campo e tabella sono sostanzialmente ciò che io trascino nella parte sottostante. La settimana scorsa abbiamo visto che cosa anche? Abbiamo visto la possibilità di ordinare questi campi. Quindi sostanzialmente io andavo ad eseguire la mia query. Se volevo andare ad ordinare per importo, andavo nella colonna importo alla riga ordinamento, quindi in questa cella. Cliccavo, vedete che cliccando c'è crescente o decrescente, rieseguendo la query, lui mi rimette in ordine di importo crescente o decrescente a seconda di quello che io vado a inserire. D'accordo? Quindi questo è sostanzialmente ciò che abbiamo visto la lezione scorsa. La lezione scorsa abbiamo visto anche l'inserimento di parametri. Dico bene? Ok, quindi abbiamo detto. Fino a qua in realtà lui semplicemente mi rifà rivedere tutti i dati delle tabelle, delle n tabelle, ma se io voglio andare a vedere ad esempio tutti gli importi che sono esattamente pari a 50 euro, vado nella colonna importo alla riga criteri e gli vado a dire ciò che io sto cercando, in questo caso 50. E sostanzialmente dell'elenco che c'era precedentemente, lui mi va a tirare fuori soltanto i 50. Ci eravamo fermati qua, no? Se non ricordo male. Perfetto. Allora, questa sera andiamo un pochino oltre. Innanzitutto, diciamo una cosa importante, tutte le volte che nei criteri andiamo a mettere dei testi. Quindi testa può essere una parola, può essere una frase, può essere parte di una parola, parte di una frase. Il testo deve essere racchiuso tra virgolette. Questa è una sintassi importante da tenere bene a mente. Ora, la lezione scorsa ci siamo limitati a mettere dei valori, fossero essi numerici o letterali. Ma in realtà il singolo valore mi dice relativamente poco, perché in questo caso io sono andato a cercare gli importi che sono esattamente uguali a 50 euro. Ebbene, la base dati non è particolarmente esaltante, perché ha 4-5 record, per cui sono già contento così. Ma voi provate a pensare a milioni e milioni di record. Difficilmente a me interessano tutte le bollette che sono intorno e che sono 50 euro. Interesseranno magari tutte le bollette che sono tra i 40 e i 70 euro. Quindi con dei range. E allora ciò che è più interessante è andare a vedere anche la possibilità di inserire criteri multipli. D'accordo? Allora, se il criterio è singolo, abbiamo detto, in caso di testo inserisco semplicemente il testo. In caso di un numero inserisco direttamente il numero. In caso di una data inserisco direttamente la data. Quindi quello mi trova esattamente testo, esattamente 50, esattamente il 1 gennaio del 2011. Le date e i numeri non vanno messi in parallelo? No. Sì, le date in realtà poi lui in automatico ci va a mettere dei cancelletti, ma detto fra di noi chi se ne frega, tanto se lo fa lui, quindi... Viceversa il testo è importante perché magari lo posso scambiare magari a volte con dell'altro testo che mi serve per fare dei controlli. Per cui uno si prende proprio l'abitudine di metterci le virgolette, fa una cosa buona. Sì, però ci sono alcuni casi dove è bene capire qual è il testo e quali sono i caratteri di controllo. Viceversa la data non si può confondere con qualcos'altro. No. Ora, vediamo, quindi questo qua è il caso di parametri singoli. Vediamo in cui ci sia il caso in cui ci siano più condizioni. Ora, le più condizioni, chi di voi ha fatto con me i corsi degli anni passati, su questo discorso ci siamo dilungati per diverso tempo, soprattutto quando facemmo l'anno scorso o due anni fa Excel, sulle più condizioni ci siamo passati per diversi mesi. Allora, in generale, quando si mettono più condizioni, si mette la condizione 1 and condizione 2, oppure condizione 1 or condizione 2. And condizione 2, condizione 1 or condizione 2. Valgono le regole matematiche di base, cioè le parentesi quadre. Diciamo che nel momento in cui inizio a mettere delle parentesi quadre il discorso si fa abbastanza complesso. Però scrivetevelo negli appunti che eventualmente valgono i discorsi delle parentesi quadre. Per cui se io scrivo condizione 1 OR condizione 2 AND condizione 3, lui prima svolge quello che c'è qua dentro e il risultato lo mette in OR con quello che c'è scritto qua. Valgono i discorsi della seconda superiore, comunque, algebra abbastanza di base. Allora, la OR vuol dire che può essere vera o una o l'altra. La OR mi indica che può essere vera o la condizione 1 o la condizione 2. Se una delle due è vera, la query funziona. La AND non dovete ricordarvela come una E, perché la E in italiano non rende bene. La AND dovete ricordarvela come se ci fosse scritto sia condizione 1 sia condizione 2. Cioè, quando vedete una AND, leggetela sempre in questa maniera qua, perché sennò rischiate di prendere delle cantonate. D'accordo? Allora, facciamo un esempio numerico che è la solita tabella che propongo tutti gli anni, ma mi diverte tanto. Allora, facciamo un esempio numerico dove scriviamo allora, 40, 70, 140, maggiore di 50, AND minore di 100. Allora, sostanzialmente facciamo una tabellina dove a fronte di n possibilità che comprendono il numero 50 e il numero 100, mescolando il simbolo di maggiore, minore, AND e OR, andiamo a vedere se il numero 40, 70 o 140 vengono inclusi o non vengono inclusi. Allora, signori, per contestualizzare il discorso e non lasciarlo così come un qualcosa di astratto, supponete che quei 50, 100 e via dicendo siano gli importi delle bollette. Cioè, supponiamo che io di volta in volta voglio sapere tutti quei valori che sono all'interno di un intervallo, tutti quei valori che sono all'esterno di un intervallo, tutti quei valori maggiori, minori, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere un attimino che cosa succede. È chiaro il discorso cos'è finalizzato? Guardate bene che questi meccanismi valgono per i valori numerici, ma anche per le date. Allora, vediamo il primo caso. Ci siete tutti? Allora, maggiore di 50 and minore di 100. Ricordatevi sempre che quando vedete un AND dovete leggerlo. Il numero deve essere sia più grande di 40 sia più piccolo di 100. Ricordatevelo sempre, non leggetela come una E perché vi confondete. O avete fatto algebra booleana perché avete fatto perito, oppure questa roba qua è difficile. Cioè è difficile, non è difficile, in realtà è banale. Però se uno non ha un minimo di mentalità, questa roba qua si confonde sempre. In l'AND leggetelo come sia. Allora, in tal caso, il 40 viene preso? No. Il 70? Sì. 140? No. Chi ha fatto perito non può rispondere, se non male. Io non ho fatto perito. Allora, maggiore di 50 or minore di 100? Il 40 viene preso? No. Il 70 viene preso? No. Il 140 viene preso? Il numero deve essere o più grande di 50 o più piccolo di 100. Ma qualsiasi numero sarà o più grande di 50 o più piccolo di 100. Siete d'accordo, signori? Oh, badate bene che il motivo di questa casellina, di questa tabella, è farvi capire... No, non ho capito. Siamo d'accordo che qualsiasi numero sarà o più grande di 50 o più piccolo di 100? Sì. Ok, quindi sì, sì, sì. 140, ma è più grande di 50. OR vuol dire o una o l'altra. Ditemi un numero, sicuramente sarà o più grande di 50 o più piccolo di 100. Ah, scusate, ho avuto una... avevo per qualche momento compreso tra... No. E no, attenzione, signora, è proprio, cioè, il motivo di questa tabellina è proprio farvi riflettere che non è che gli AND e gli OR siano intercambiabili. Voi fate una roba di questo genere, siete convinti di essere in questa situazione e in realtà la vostra query vi piglia esattamente tutto. Cioè, scrivere una roba di questo genere, maggiore di 50 o minore di 100, vuol dire non aver scritto esattamente nulla. Quindi attenzione quando andate a riflettere su queste casistiche. Poi, intendiamoci, le casistiche alla fine sono abbastanza codificate, ma ci possono essere magari in futuro dei casi particolari in cui vale la pena riflettere. E spero che in questi casi vi venga in mente questa tabellina fatta insieme e che non prendiate alla leggera il fatto di metterci un AND, un OR, un maggiore, un minore. Vediamo il terzo caso. Maggiore di 50, AND maggiore di 100. Il 40 viene preso? Il 70? Il 140? Oh, signori, scusatemi un secondo. Non è il quiz su Rai 1 tra le 8 e le 8 e mezza, prima del telegiornale, dove sentirono le parole a caso e il presentatore, se vincete vi dà 100.000 euro e noi contribuenti paghiamo, anche se l'Italia sta andando a rotoli. Eh? Allora non prendiamo confidenza. Allora, ricordatevi che dovete leggere sia, il numero deve essere sia maggiore di 50, sia maggiore di 100. 70 è sia maggiore di 50, sia maggiore di 100? No. Per l'ennesima volta vi invito a leggere l'end come un sia, perché se no sbagliate. Quindi in realtà questa è inutile. Una volta di più la tabellina è fatta per riflettere insieme su queste condizioni. La prima parte non serve. Quarta, maggiore di 50 or maggiore di 100. 40 viene preso? No. È fino a qua. 70? Sì. 140? Sì. Quindi sostanzialmente la seconda parte è come se non, cioè, non serve. La voce successiva, vabbè, è abbastanza speculare a quella due sopra, quindi sarà sì, no, no, è come se questa parte non ammettessimo. Quindi minore di 50, end minore di 100, è come se, se avessi scritto semplicemente minore di 50. Anche sulla successiva, non stiamo a perderci tanto tempo, sì, sì, no. Quindi minore di 50 or minore di 100 è come se avessi scritto semplicemente minore di 100. Particolarmente interessante è la penultima, rifletteteci due secondi in più, fate finta che sia l'ultima domanda prima di arrivare al quiz finale. Minore di 50 and maggiore di 100. Sei sicuro? È la tua risposta definitiva? Qua siamo passati al canale 5. Non essere timido. Fai valere le tue opinioni. E tu, sono tutti e tre no, perché il numero deve essere contemporaneamente sia più piccolo di 50 sia più grande di 100, ma nessun numero sarà contemporaneamente più piccolo di 50 e più grande di 100. Per cui, signori, voi scrivete una roba del genere e vi rendete conto che in realtà lui non prende mai nulla, cioè la vostra query praticamente inutile. Prego. Deve essere sia più piccolo di 50, sia più grande di 100. Sì, ma non c'è nessun numero che sia più piccolo di 50, sia più grande di 100. Ultimo caso, minore di 50 or maggiore di 100. Il 40 viene preso? Il 70? Il 140? Precisamente. In questo caso sostanzialmente lui prende gli estremi opposti. è l'opposto del primo, esatto. Allora, testiamolo su questo database, sebbene, ripeto, il numero di record non sia particolarmente esaltante. Ok. Proviamo il primo caso. Il caso in cui gli dica che deve essere maggiore di, in questo caso facciamo maggiore di 100 e minore di 200. Mettiamogli maggiore uguale o minore uguale, così prende anche il 100, il 150 e il 200. Mi seguite? Quindi se io gli dico maggiore uguale di 100 and minore è uguale di 200, e badate bene che sono andato nella colonna importo alla riga criteri e ho scritto esattamente come ho scritto sulla lavagna, quindi maggiore uguale 100 and minore uguale 200. Se lancio la mia query, lui mi va a prendere esattamente i valori che ci aspettavamo. Mi seguite tutti? Proviamo a sostituire l'end con l'or. Ma abbiamo visto prima che in realtà lui mi dovrebbe andare a prendere tutto, cioè come se io non avessi scritto nulla nella query. Lancio la mia query ed effettivamente come se io non avessi scritto nulla, perché tutti i valori delle bollette saranno o più grandi di 50 o più piccoli di 200. Proviamo a prendere il penultimo caso, laddove non ci aspettiamo praticamente che prenda nulla. D'accordo? Quindi, gli diciamo minore uguale a 100 and maggiore è uguale a 200. Lancio la mia query e lui effettivamente non prende nulla. Attenzione signori, perché se voi fate con superficialità sta roba, soprattutto all'inizio quando non avete tanta confidenza con Access, su una videata del genere iniziate a tirare craniate sul monitor, perché voi siete sicuri che lui vi prende esattamente quello che ci sta in mezzo e lui non vi prende un ben amato niente. E diventa fonte di frustrazione, per cui cercate di pensarci sempre un secondo prima, che non un secondo dopo. Se io viceversa vado a scrivere minore uguale a 100 or maggiore uguale a 200, lui prende gli estremi, quindi il 150 che stava in mezzo non lo va a prendere. Vedete? È chiaro per tutti? Esatto. Posso cancellare questa? Sì. Quindi sostanzialmente, signori, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che le condizioni si possono concatenare e che maggiore si scrive così, minore si scrive cos'ha, maggiore uguale, minore uguale, diverso. Questi simboli si possono utilizzare o con i campi numerici o con i campi cronologici, data o data ora. Quindi tutte le volte in cui avete una data, un'ora o un numero, potete utilizzare questi simboli da accoppiare eventualmente con gli AND e con gli OR. O potete anche non mettere nessun AND e nessun OR. Se a voi interessano tutti i valori superiori a 150, lasciate semplicemente maggiore di 150. È chiaro? Non siete obbligati ad andare a mettere un AND o un OR. È chiaro bene questo discorso, signori? Chiaramente questi valori, questi simboli, non li potete utilizzare per il testo. Per il testo, chiaramente, questi simboli non li potete usare. E allora, cos'è che potete usare per il testo? Allora, fino a qua avete scritto tutti? Sì. Vediamo per il testo cosa si può usare. Abbiamo detto che questo prende esattamente la parola testo, virgolette, testo, chiuse le virgolette, prende esattamente la parola testo. Ora signori, può capitare che però io mi ricordi soltanto la parte iniziale o la parte finale o qualche lettera all'interno nel mio testo. Provate a pensare magari a un testo particolarmente lungo o un cognome, insomma, mi telefona, immaginate di essere gli operatori dell'89 24 24, giusto perché stasera sto facendo pubblicità un po' a tutti. Salve, vorrei Zuccalà a Torino. Ma voi sapete quante gente che scrive bene il mio cognome al primo giro? Nessuno. Scusi, chi cerca? Zuccalà. Vabbè, ho capito zucca, poi il resto non... perché è sempre così, Poi là. E allora, un bel like. Zucca. End asterisco. Mi cerca tutti i testi, che possono essere o parole o frasi, che iniziano con zucca. Quindi, like, zucca, end, asterisco, mi troverà zucca là, zucca qua, zucca dove vuoi. E chi più ne ha più ne metta. E tutte le volte che lui trova un testo che inizia con zucca, con quella scrittura lì ve lo acchiappa. Capite che è molto più flessibile che non mettergli il testo esatto, giusto? Like, asterisco, end, aperte le virgolette, SRL, mi troverà tutte quelle parole o frasi che finiscono con SRL. Quindi Pippo SRL, Pluto SRL, Ecco, dato che noi italiani siamo dei campioni di immaginazione, una volta scriviamo SRL, una volta scriviamo S.R.L. Una volta scriviamo S.R.L. Una volta S.R.L. Vabbè, ma per fortuna almeno quello non fa differenza. Se io lì volessi andargli a dire SRL anziché S.R.L. cosa gli dovrei dire? Chi ha detto end? No. No, perché vuol dire che deve finire sia con SRL sia con S.R.L. Nella stessa frase? Ah, no. O uno o l'altro. Quindi o finisce in un modo o finisce nell'altro. Quindi, esatto. Quindi se io, ad esempio, volessi dirgli che finisca con SRL o con S.L. Devo dirgli or, like, asterisco, and, S.R.L. Diciamo che nel testo l'end non mi viene in mente nessun caso nel quale si metta tipicamente l'or. Probabilmente l'anno scorso abbiamo visto solo l'or, infatti. D'accordo? Un ultimo caso è il like asterisco end. Like asterisco end ciccio, tra virgolette, end asterisco. Tutte le parole o frasi che al cui interno ci sia la parola ciccio. Attenzione, perché al cui interno vuol dire che possono anche iniziare o finire con ciccio. Sì, cicciolino viene ciccio lo stesso. Non era quella l'idea, ma calza a pennello. Ok? Quindi tutte le parole o frasi che hanno al loro interno ciccio, e ripeto, possono anche iniziare o finire con ciccio. E allora vediamo qualche esempio. Allora, aggiungiamo un altro fornitore. Ok, ho aggiunto degli altri fornitori in modo da avere un minimo di scelta. Quindi ho messo Enel Gas, Enel ed Enel Luce. Poi Telecom e Tele Più. Ok? Allora, proviamo a fare degli esempi nella ragione sociale. Abbiamo detto, se io vado a scrivergli esattamente Enel, lui mi troverà esattamente Enel. Quindi Enel Gas anziché Enel Luce non le troverà. D'accordo? Sì. Se però io gli dico like Enel and asterisco, quando eseguo, lui mi trova tutte quelle parole o frasi che iniziano con Enel. Quindi Enel e basta, Enel Gas, Enel Luce. Se io gli dicessi like asterisco and com, cercherà tutte quelle parole o frasi che finiscono con com. In questa fattispecie è soltanto Telecom. Se io gli cercassi tutto ciò che ha ele in mezzo alle parole o frasi, mi troverà Tele Più e Telecom. D'accordo? Quindi signori, allora, questo è uno degli aspetti nel quale gli utenti spesso e volentieri si perdono. Devo essere sincero, non capisco il perché sono proprio tre pacchettini da studiare a memoria, però la gente qua inizia ad inventare. Allora, qua non dovete inventare assolutamente nulla. Basta che voi, di volta in volta, è come una regoletta da imparare a memoria. Se scrivete like, parola, and asterisco, mi trova tutto quello che c'è all'inizio. Like, asterisco, and parola, mi trova tutto quello che finisce con quella parola. Like, asterisco, and parola, asterisco, and, mi trova tutto quello che ha la parola in mezzo. Non c'è bisogno di inventarsi niente di particolare altro. Poi l'asterisco, ho notato che di solito ai miei studenti non piace. L'asterisco proprio non piace. Di solito uno si inizia a mettere il più, i meni. Va bene. Quindi abbiamo visto che cosa posso mettere per i numeri e le date. Abbiamo visto che cosa posso mettere per il testo. D'accordo, signori? Allora, tutto ciò che abbiamo visto finora si chiamano query di selezione semplice. Query di selezione semplice. Perché è semplice? Qualcuno mi potrebbe dire, vai, semplice mica tanto, perché like, and, tra. In realtà sono quelli di selezione semplice, perché? Perché una volta impostate, non le cambio più. Possono essere utili queste query? Sì. Facevamo la volta scorsa l'esempio delle guide telefoniche. In Italia ci sono quante province? 320. Guarda, miseria. Province sono 21. In Italia ci sono 21 province, o quelle che sono, poco importa. Poco importa. Facciamo finta 100, così tagliamo la testa alla zebra, non se ne parla più. Ci sono 100 province. Mi faccio 100 query, Torino, Genova, Catanzaro, Palermo, immaginatevi, no? Il calderone di tutti i numeri telefonici di tutta Italia, mi faccio 100 query dove nella città metterò uguale Torino, uguale Genova, uguale Catanzaro, uguale Palermo. Quindi in alcuni casi effettivamente le query semplici possono essere particolarmente utili, perché una volta fissate non si cambiano più. Ok? Perché? Non ho capito. Ah sì sì, adesso le tolgono la provincia. Poi lì ci sarà da vedere che cosa si inventeranno poi perché fate la legge e trovate l'inganno, no? E quale sarà la fantasia tutta italiana che ci permetterà di... Sì, sì, infatti, cioè in che modo riusciranno a rimanere sempre lì? Perché tanto si sa. Avete sentito adesso di quei parlamentari che si sono dimessi dal Parlamento perché Monti ha fatto quella legge dove... Ah, non li ha fatti più rimettere? No, perché mi pare che sia finito, mi ha detto... Porca miseria. Che vergogna, che vergogna. Perché volevano, per il fatto che volevano mettere le pressioni su... Sì. Quindi stavano, se ne stavano andando? Perché loro li entravano e l'altro li ha detto. Che vergogna. Vabbè, allora signori, query di selezione semplice, passiamo alle query parametriche. Allora signori, le query parametriche in realtà sono di una facilità sensazionale. Allora, iniziamo a vedere a che cosa servono. Allora, mentre la query di selezione semplice vi seleziona sempre e solo un valore, scrivetevelo, mentre le query di selezione semplice vi seleziona sempre e solo è un po' improprio dire un valore, perché nel caso dei numeri maggiore, minore, vi selezionerà anche più valori, però voglio dire sempre solo una quantità prefissata di valori. Nella query parametrica vado a chiedere all'utente cosa cercare. Cioè, supponete in quel caso lì l'importo, no? Allora io prima avevo scritto come importo 50. Ora, invece di andare a scrivere 50, andrò a chiedere all'utente che valore di bolletta vuoi cercare? L'utente lo inserisce e lui me lo cerca. Quindi una volta l'utente mi metterà 50, una volta mi metterà 100, una volta mi metterà 150. È chiaro? Come faccio questo passaggio? Nella struttura della query... Nella struttura della query, quindi per fare ciò, nella struttura della query andrò tra parentesi quadre ad inserire una domanda significativa. Cosa vuol dire significativa? Che se sto interrogando gli importi, gli andrò a scrivere che importo stai cercando? Non gli posso andare a scrivere come si chiama il tuo cane. Ciò che scrivete nella domanda al computer non gliene frega niente. Quello che gli interessa al computer è che voi apriate e chiudiate una parentesi quadra. E chiaramente se volete andare ad interrogare gli importi, dovete andarlo a scrivere questa roba qua nella colonna importo alla riga criteri. Cioè là dove prima andavamo a mettere il parametro fisso, adesso andremo a mettere le parentesi quadre. Allora, vediamolo subito, perché è più facile da farsi che non da spiegarsi. Prendiamo proprio gli importi. Prima io scrivevo 50, giusto? Scrivevo 50 e lui mi andava a trovare esattamente il valore 50. Chiaro che questo tipo di query può essere utile, interessante in alcune situazioni, ma non in tutte. Perché se io ho 200 valori, non posso farmi 200 query diverse. E allora, al posto di 50, tra parentesi quadre, quindi io la apro e la chiudo subito, scriveteveli, la apro e la chiudo subito. Ricordatevi questa cosa qua, perché sennò poi, se non la chiudete, vi dà problemi. E poi dovete semplicemente tornare indietro di 1. Tac, ritornate indietro di 1. E scriviamo una domanda. La domanda la potete scrivere anche in piemontese, anziché in... ripeto, al computer non interessa quello che scrivete lì dentro. Chiaro che siccome quella è la domanda che verrà fuori all'utente, la domanda deve essere il più significativa possibile. In questo caso, quale importo di fattura cerchi? Vedete che c'è aperta e chiusa parentesi quadra. Praticamente la domanda serve l'indicazione per l'utente. Per l'utente. Ok? Allora, quando io andrò ad eseguire la query 1, guardate un po'... No, quello semplicemente per farvelo vedere. Guardate cosa succede. Io faccio doppio clic sulla query 1 e lui mi fa apparire una finestrella dove mi chiede quale importo di fattura cerchi? Che è esattamente la domanda che io gli avevo scritto precedentemente. Se io gli metto 50 mi farà vedere la stessa cosa che mi faceva prima, se io gli metto questa volta 100 mi farà vedere tutte quelle che hanno 100 come valore di fattura. Se io la chiudo e la riavvio, lui me lo richiede, gli metto 300, lui mi farà vedere tutte quelle che hanno valore 300. D'accordo? Ok, signori? Ci siamo? Sì. Ripeto, a costo di sembrare noioso, attenzione perché al computer, per l'ennesima volta, non gli interessa nulla di quello che scrivete lì dentro. E vi do un chiaro esempio. Se io quella domanda gliela pongo qua, quindi sotto il campo tipo di fornitura, ricordate che tipo di fornitura era gas, luce, eccetera, eccetera, chiudo, lancio la query e lui mi dice quale importo di fattura cerchi? E io dico, sto cercando un importo di fattura, scrivo 100 e non trova nulla. Scrivo 300 e non trova nulla, scrivo 200 e non trova nulla. La lancio, quale importo di fattura cerchi? Gas. Ah, eccola qua. Quindi dov'è che voglio arrivare? Che non è che il computer è talmente intelligente che se io gli dico quale importo di fattura cerchi, lui sa che deve andare sotto la colonna importo. No. Lui, quello che interessa al computer è che voi apriate, chiudete le parentesi quadre, dentro una determinata colonnina. Poi lì dentro la domanda gliela dovete fare voi. E deve essere il più esplicativa possibile. D'accordo? Quindi, per riassumere, la query parametrica si fa semplicemente con aperta, chiusa, domanda. E la domanda sarà quella che apparirà all'utente, potete essere anche voi stessi, nel momento in cui lancio la query. Ma allora, che fine fanno tutti gli and, or, like, mica like e tutto il resto? Continuano a valere. Quindi, se io prima, quindi le parentesi quadre domanda di una query parametrica vanno a sostituirsi ai numeri, alle date o al testo di una query semplice. Cioè laddove nella query semplice avrei messo una data o un numero o un testo, nella query parametrica la struttura rimane identica, solo che ci metto le parentesi quadre con una domanda dentro. Riesco a spiegarmi? Sì. E allora all'inizio, quando fate le query parametriche, fate il doppio passaggio. Fatevi l'esempio con la query semplice e poi con la query parametrica. Vi faccio un esempio. Supponiate che voi vogliate trovare tutte le persone che sono nate tra il 1970 e il 1980. Cosa dovreste scrivere nel campo data di nascita? Maggiore o uguale 70, quindi 1 1 1970, and minore o uguale 31 12 1980, giusto? Questo mi trova Ora, se volessi fare parametrica questa query, quindi non voglio sempre che mi trovi tutte le persone tra le 70 e l'80, ma voglio che l'utente in tutta libertà mi vada a mettere lui le date che gli interessano. Cosa dovrò fare con una query parametrica? Cosa dovrò scrivere? Che è dal? Cioè, quindi scrivo dal al? Allora, lo ripeto, la query parametrica è la stessa identica query di selezione semplice, dove al posto dei numeri, delle date e del testo, gli metto la domanda. Signori, non inventate. Dall'al è un inventare. Quindi prendete la query semplice e al posto delle date gli mettete le domande. Quindi cosa devo scrivere? Maggiore o uguale? Tra parentesi quadre che cosa gli devo mettere? No, gli devo mettere una domanda. Qual è la data inferiore? Quale data inf? Poi? And? No. Quale data sup? Ed è bella che è fatta la parametrica. Guardate, signori, che è veramente molto più facile di quanto possa sembrare. Cioè, se avete capito le query semplici prima, con gli AND e gli OR, qua è proprio solo un passaggino mentale in più. Dovete prendere i valori e sostituirli con delle domande. Basta. Proviamo a fare l'esempio qui. Qua vedete che ci sono i valori 50, 100, 150. Allora, se io nel importo vado a scrivere maggiore di 150 and minore e uguale di 300, maggiore di 100 e minore uguale di 300, lui mi tirerà fuori tutti i valori che sono più grandi di 100 e minori o uguali di 300. Tutti d'accordo? Ora, signori, dovete fare semplicemente il seguente passaggino. Al posto del 100 mettete aperta e chiusa quale valore di fattura inferiore. Al posto del 300, aperta e chiusa, quale valore di fattura superiore? È chiaro? Perché? Vabbè, oppure facciamo come diceva la signora, da A, è così. Oh, signora, ripeto, non me ne frega un tubo di cosa scrivete lì dentro. Cioè, l'importante è che poi quando lo leggiate sappiate di che cavolo state parlando, ok? Però è chiaro il concetto, al di là dell'inferiore, superiore, maggiore, minore. Cioè, quello che mi interessa è che la stessa identica query di prima, dove al posto di valori numerici io ci ho messo, tra parentesi quadre, una domanda. Ok. Allora, se io questo giro lancio la query, lui mi chiederà qual è il valore inferiore di fattura? E io questa volta posso decidere. Gli metto per esempio 200. Qual è il valore superiore? Gli metto 400. E lui mi tira fuori tutti quei valori che sono maggiori di 200 e minori o uguali di 400. Capite che in questa maniera qua avete una flessibilità decisamente ampia. Roba che Excel se la sogna di notte, sta flessibilità. Ora signori, cosa vorrei che faceste a casa? A casa mi piacerebbe che voi, in questo mini esempio, magari nutritelo un pochino, provaste le query semplici e parametriche. Cioè, cercate di prendere confidenza con ciò che è poi il cuore vero e proprio di Access, o comunque di qualsiasi database. Quindi provate a usare il... prendiamo gli importi. Provate a usare il maggiore, il maggiore, il maggiore di un valore and minore di un altro valore, il maggiore di un valore or il minore. Quindi prendete un po' confidenza con la tabellina che c'eravamo visti all'inizio lezione, che abbiamo visto all'inizio lezione. E poi prendete confidenza con il like, perché ripeto, il like è una di quelle cose dove sbatterete la testa all'inizio. Perché non piace agli utenti il like. Quindi provate con la fornitura o la ragione sociale, magari mettetegli ragioni sociali un po' variegate, ok? Provate il like, asterisco, and, testo, like, testo, and, asterisco, e poi like, asterisco, testo, asterisco. E fate un po' di prove, ma non una o due, signori, perché... dovete provarle questa roba qua, perché poi quando inizieremo a fare i casi pratici, se non avete confidenza con questi strumenti, col cavolo che riuscite a farli. Quindi provate le 3, 4, 10, 30 volte. Una volta che avete provato le query semplici, magari salvatele con nomi diversi, perché ripeto, questo non è Excel. Il bello di Access è che voi potete prendere la query. Una volta che ve la siete fatta, la query, questa qua la chiamate query su importo 50 100, copia, incolla query su ragione sociale e via, e vi modificate la seconda query. È chiaro? E non dovete neanche sforzarvi a rifare tutto il procedimento. Pigliate la query, copia e incolla, gli date un altro nome, copia, incolla, Ctrl C, Ctrl V. Chiaramente gli cambiate il nome, una volta che gli avete cambiato il nome, chiaramente lui ha fatto proprio la copia paro paro. Quindi dovete entrare un secondino nella struttura e andargli a cambiare quello che gli dovete cambiare. Sì. Quindi provate prima a fare solo query semplici, con gli importi, con le ragioni sociali, eccetera, eccetera. E ve ne salvate una quindicina, una ventina. Dopodiché le stesse query vi entrate nuovamente dentro e al posto dei numeri, al posto delle date, al posto del testo, provate a sostituirci le parentesi quadre con una domanda dentro. Proprio perché voglio che entrate in questo meccanismo, che la query parametrica è facilissima. Cioè non è nient'altro che una query semplice, dove al posto del numero, data o testo, gli metto le parentesi quadre. Posso variare quando... D'accordo? Signori, buona settimana, ci sentiamo, ci vediamo fra 7 giorni. Il 23 non prendete ferie perché c'è lezione. Come? Da calendario il 23 c'è lezione, per cui io la faccio. Per cui chi ha già la sacca della Valtour per andare in ferie... È fallita. Lo so che è fallita.